misteri della vita, o forse siamo noi, pensare sia infinita, in paradisi e poi, convinti solo a credere, che al mondo solo noi, possiamo solo prendere, amare e fare eroi, ci sono al mondo altri, vivendo insieme a noi, sono essere più scaltri, a volte veri eroi, un cane porta un cieco al suo portone, un gatto fa le fusa al suo padrone. Un cavallo correrà con noi. Un'aquila ci guida su dal cielo. Storie d'animali così, avuti da cuccioli e poi cresciuti e poi persi, rimasti nel cuore, restare una parte di noi. Nella leggenda nata per gli eroi, i nostri amici aspettano finché arriviamo noi, che vogliamo credere a un paradiso e poi non ci farà perdere ciò che è dentro noi. In questo mondo sono bestie ormai guarite che hanno amato l'uomo, leccando le ferite lassù in un cielo sereno. C'è il ponte dell'arcobaleno, alla fine del tempo è con noi. A unirci per sempre su un cielo, storie d'amore così, avute da cuccioli e poi persi e poi ritrovati nel cuore, per essere parte di noi.